Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente resta il tema dei danni economici causati dal coronavirus, però oggi parleremo anche della Francia. Ho capito che Canal Plus ha fatto le sue scuse, ha rimosso il video, poi vi spiegherò cosa è successo a chi non lo sapesse, però un video del genere non si fa, non è una frase dal sen fuggita, una battuta riuscita male. Quello è un video che è stato preparato in cui c'è un pizzaiolo italiano, che poi in realtà la faccia di un francese che guarda i baffi, che mentre tira fuori la pizza sputa sulla pizza e lo chiamano tossisce sputando sulla pizza e corona pizza. Ora datemi tempo, però risponderò anche ai francesi. Voglio dire, se uno gli brucia qualcosa perché negli ultimi anni l'export agroalimentare italiano è andato meglio e soprattutto alimentare di quello francese, non parlo solo del Prosecco, parlo del fatto che noi esportiamo 5 miliardi di agroalimentari in Francia, è il nostro secondo partner commerciale, la concorrenza si batte in maniera leale e non si batte con i mezzucci. Questo lo dico perché nella seconda ora del programma affronteremo alcune delle misure prese non per la zona rossa, le misure annunciate ieri da 3 miliardi e 600 milioni, chiaramente solo iniziali, solo un tampone, per usare un termine molto utilizzato, riguardava la zona rossa. Oggi il governo in conferenza stampa con vari ministri, da cui Belanova, Di Maio e non solo, Gualtieri, ha annunciato un secondo decreto, dopo c'è un altro decreto che arriverà venerdì e sarà il terzo, perché il primo è quello approvato venerdì scorso con 900 milioni di euro solo la cosiddetta zona rossa, quindi i comuni del Lodigiano e del Veneto. Poi c'è stato il secondo, quello di ieri, 3 miliardi e 600 milioni per sostenere l'economia nei settori più colpiti. Oggi invece c'è stata la presentazione di alcune misure per il Made in Italy. Domani mattina alle 10 vi sarà un Consiglio dei Ministri, un CDM con tutti i ministri per discutere le prossime misure da adottare, però venerdì arriverà un decreto per la fase 2 per gli aiuti diretti a tutti i territori colpiti dall'emergenza e gli interventi dovrebbero ricalcare quelli già presi per la zona rossa. Poi ci si aspetta anche il decreto di Franceschini sul turismo, dovrebbe arrivare sempre venerdì, e quindi interventi destinati a rafforzare il settore del turismo, non solo cassa integrazione in deroga, ma anche altri, e anche interventi diretti a rafforzare il sistema sanitario. Oggi, dicevo, è stato presentato il piano Salvini 2020 per la promozione del Made in Italy davanti alla crisi del coronavirus, ci sono state annunciate altre misure. Penso al fatto che sia slittata la presentazione del 730 per 20 milioni e mezzo di contribuenti, di cui 8 milioni sono pensionati, 12 milioni e mezzo sono dipendenti, slitta sostanzialmente a settembre. E parleremo, allora, è chiaro che in questo momento tutti i decreti sono decreti tampone, decreti emergenziali. Poi bisognerà, una volta che l'emergenza sarà finita e si potrà anche ragionare a mente più fredda, ragionare anche su il contenimento, sarà stato dichiarato, insomma, efficace, bisognerà organizzare un piano ancora più massiccio di comunicazione all'estero. Comunicazione non vuol dire solo, vuol dire tante cose, vuol dire anche le iniziative. Io penso per esempio a un'iniziativa forte per quello che riguarda le imprese sulla defiscalizzazione, comunque il poter avere, detrarre tutte le spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza diventeranno fondamentali non adesso, ma quando si sarà placata questa ondata anche di viaggi impediti agli italiani. Le aziende dovranno riprendere i contatti con tutta la loro rete commerciale, con i buyers, lì, andare lì, invitarli in Italia, cioè tutte le cose che non riescono a fare adesso. E quindi anche misure ad hoc su quello che si chiama spese di rappresentanza non sono una banalità, perché permetterebbe, dovrà esserci un investimento più forte nelle imprese superata questa crisi, nel riallacciare o rafforzare o riesplorare tutti i mercati esteri, ma anche tutti i compratori esteri. Uno sforzo straordinario che andrebbe incentivato a livello quantomeno fiscale, visto che arriveranno già da fatturati quantomeno deludenti. Allora, e questo per quello che riguarda l'iniziativa di oggi. Ripeto, poi il grosso arriverà anche venerdì con, e ci aspettiamo misure soprattutto per il settore del turismo. Nel frattempo daremo come sempre anche l'aggiornamento su quello che sta capitando e cercheremo di capire oggi soprattutto quale, diciamo, strategia di comunicazione dovrà avere l'Italia. Perché dico dovrà? Perché molti esperti ci dicono che adesso come adesso, per carità, tu tamponi l'emergenza, ma è anche difficile promuovere il paese dal punto di vista turistico, dal punto di vista dei suoi prodotti agroalimentari, dei controlli che nell'agroalimentare sono, penso, al numero uno a livello mondiale, nel momento in cui sei ancora in piena emergenza. Vedo che appunto aspettiamo alle 18 l'aggiornamento della protezione civile, vedo che in Francia i contagiati hanno superato quota 200, mentre in Germania sono 165. C'è sempre il tema che molti ascoltatori mi pongono di quanti tamponi abbiamo effettuato. Allora, alcuni dicono beh, meno male che non abbiamo fatti tanti perché siamo più sicuri, altri dicono attenzione, si è esagerato con le linee dell'OMS. E da questo punto di vista io vorrei far ascoltare allora intanto i numeri. L'Italia ha ad ora, perché poi aspettiamo l'aggiornamento delle 18, 2036 casi confermati, con 23.345 tamponi effettuati. La Francia ha 204 casi confermati con 1.126 tamponi effettuati, il 5% dei nostri. E la Germania ha 165 casi, non si riesce a trovare il dato sui tamponi effettuati. Ora, io non sono un virologo e mi guardo bene da dare qualunque tipo di proiezione. Faccio solo notare che a livello numerico la Francia ha un decimo dei nostri casi confermati con il 5% dei tamponi effettuati. Tutto qua. Poi uno mi dice non c'entra niente. Per carità, non dico che in automatico se avessero fatto 23.000 campioni avrebbero avuto anche più casi dei nostri. Faccio notare che a livello numerico noi abbiamo 2.000 casi su 23.000 tamponi, loro hanno 200 casi su 1.100 tamponi. Tutto qua. Non siamo neanche al 10%, al 5% dei nostri. E tra l'altro tamponi effettuati, va dato un plauso alla struttura sanitaria italiana, nonostante i tagli di questi anni, effettuati con dei tamponi che sono stati sviluppati negli ultimi sostanzialmente 15-20 giorni, quindi un plauso anche a questo. Però, dicevo, il tema della comunicazione e del rilancio, del supporto del Made in Italy, perché è fondamentale? Intanto perché sappiamo che l'export è quello che ha tenuto in piedi il paese in questi anni. L'anno scorso abbiamo esportato solo di cibo quasi 50 miliardi, 10 anni fa ne esportavamo 15, quindi questo gli dà la progressione. Ma anche perché è chiaro che fare un'operazione di comunicazione adesso serve molto poco, perché siamo in piena emergenza. Appena però la situazione potrà dichiararsi sotto controllo e quindi tornare a una certa normalizzazione, sarà importante avere già pronto un piano, sia per il turismo, sia per il Made in Italy. Ora, il turismo è chiaro anche a me. Quello che mi fa girare le scatole è che stiano bloccando prodotti, come abbiamo raccontato ieri, in Grecia, ma anche in Romania. La Romania vorrebbe mettere in quarantena i prodotti agroalimentari italiani. Adesso io capisco tutto, voglio bene i rumeni, ma prendere lezioni dai rumeni su come si fa e si controlla la filiera Agroalimentare no, onestamente. E ripeto, stiamo parlando di prodotti, cioè di beni, non di persone. Così come quando vedo che molti produttori di vino della zona del Padovano stanno raccontando, e non solo, anche in Trevisano, che le bottiglie vengono rispedite o che non le voglio. E poi, e oggi il ministro Di Maio ha detto: i blocchi alle merci sono inaccettabili, e avere paesi che in queste ore stanno chiedendo dei bollini di garanzia sulle merci italiane è inaccettabile. Nessuno ha mai chiesto garanzia sulle merci cinesi, faccio notare. Il problema è lì che non venivano delle volte imbarcate, e quindi su questo il punto sarà arrivare, quando si potrà partire con una campagna già pronta, non farsi trovare all'ultimo e impostare una campagna in 4-4-8, perché il tempo, poi, a mio avviso, tra quando si normalizzerà la situazione, che nessuno è in grado di dirlo, e quando tu potrai usare una campagna efficace, perché a quel punto il paese è in sicurezza sul fronte turistico e anche sugli altri fronti, non sarà un tempo enorme. Di questo parleremo con chi rappresenta la principale associazione in Italia dei creativi e pubblicitari italiani, perché cerchiamo di dare nel piccolo, per quello che riusciamo, anche qualche consiglio al governo, così come lo daremo nei prossimi giorni anche sul fronte fiscale. Vedi appunto il rinvio di alcune scadenze, vedi anche agevolazioni per tutta l'attività di impresa che dovrà essere fatta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Qualcuno mi dice: guardi che non è una gara sui casi. No, non è una gara. Io non sono contento se in Francia i casi sono diventati 204, cioè più o meno sono arrivati al livello nostro di sostanzialmente domenica, lunedì, e non sono contento di questo, però faccio solo notare che la proporzione sui tamponi effettuati resta assolutamente squilibrata, no? E vorrei far ascoltare quello che ha detto Ricciardi, esponente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché consulente del ministro Speranza, sul fatto che forse noi all'inizio, per un eccesso di zelo, per mostrare che eravamo tutti pronti, ne abbiamo già parlato, non voglio tornare sulle polemiche mediatiche che mi avviso hanno coinvolto sì il Presidente del Consiglio ma anche i due governatori Fontana e Zaia, però c'è stato, secondo Ricciardi, non secondo sottoscritto, un eccesso di, diciamo, utilizzo dei tamponi, andando contro le indicazioni che arrivavano dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che diceva i tamponi vanno effettuati in chi presenta dei sintomi, ed è il motivo per cui Francia e anche Germania ne hanno fatti così pochi. Sentiamo Ricciardi. Alcune regioni, in particolar modo la Lombardia e il Veneto e in parte anche le altre regioni, non hanno seguito le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicevano che i tamponi andavano fatti soltanto ai soggetti sintomatici, che quindi avevano febbre, tosse, congiuntivite e un altro dei fattori di rischio, o per contatto, nel senso che erano stati a contatto con un malato, o per provenienza geografica. Il fatto che noi abbiamo fatto tanti tamponi agli asintomatici ci ha portato da una parte a sovrastimare, nel senso questi che comunque sono test positivi, ma gli altri paesi che hanno fatto soltanto quelli sintomatici, da parte loro questi pazienti non li hanno visti, e quindi loro probabilmente ce n'hanno molti di più di quelli che denunciano. E ora qui lo so benissimo che le opinioni si dividono tra chi dice siamo stati troppo zelanti e quindi un po' masochisti nel diffondere l'immagine che ormai hanno tutti, ha chiuso i voli per l'Italia, non per il Lombardo Veneto, anche l'India, e chi dice no, noi siamo stati più bravi perché abbiamo fatto più tamponi, quindi abbiamo una situazione più controllata, e quindi hanno sbagliato Francia e Germania. A me interessa però solo che il campo da gioco sia uguale per tutti, cioè non posso far passare l'Italia come il paese degli untori in cui bloccano anche le merci solo perché noi siamo stati più zelanti e gli altri si sono attenuti alle indicazioni dell'OMS. No, a chi mi dice cambiate argomento dico: guardi, abbia pazienza, cambi radio, io non cambio argomento oggi. C'ho le disdette nel settore alberghiero che stanno arrivando quasi dappertutto, al 90%, anche a Firenze, che come casi, voglio dire, andatevele a guardare, Nardella oggi ha annunciato che ci sono più di 100 alberghi a Firenze che hanno chiuso temporaneamente, ovviamente, perché non hanno clienti. Ma come vuole che faccia a cambiare argomento? Di cosa parlo? Dell'Ape Maia. Personalmente io ritengo che noi siamo stati troppo zelanti. Comunque vedremo cosa succederà negli altri paesi. La buona notizia di oggi, per trovarne una, è che la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Americana ha tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse. E Wall Street, che ieri sulle voci di questo era cresciuta moltissimo, ha subito un rimbalzo, devo dire, che poi però ha ritracciato. Adesso il Dow Jones perde l'1,5%, portando anche la crescita delle altre borse europee non proprio sui massimi. Milano più 0,44, Parigi più 1, Francoforte più 0,90, Londra più 1,70%. È il primo taglio dei tassi emergenziale per la Banca Centrale Americana dalla crisi del 2008. E Trump ha detto la Federal Reserve deve tagliare di più i tassi, però la stessa banca centrale ha detto i fondamentali dell'economia restano solidi. I G7, che si sono visti a Bruxelles, i ministri finanziari, sono pronti anche a stimoli economici. La Banca d'Inghilterra dice essere pronta ad agire. C'è un premier britannico, Boris Johnson, ha presentato un piano di contenimento del coronavirus ha citato rischi significativi di espansione dei contagi, anche se maggioranza in forma lieve, che potrebbe produrre un picco di assenze lavorative pari a un quinto, nella peggiore delle ipotesi, dell'intera forza lavoro del paese. E poi lì botta risposta, forse c'è stato un fraintendimento nella traduzione, perché il ministro giapponese, qui parliamo dei giochi olimpici, ha detto potrebbero essere spostati. E invece il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha detto i giochi si svolgeranno regolarmente il 24 luglio. Qualcuno mi dice: guardi che se la matematica non è un'opinione, la percentuale di contagiati francese è superiore agli italiani in base ai tamponi effettuati. Ah, certo, non c'è dubbio. Però non so dire se basti questo. Magari sicuramente noi abbiamo avuto un focolaio importantissimo negli 11 comuni dell'Odigiano. Faccio solo notare che c'è una sproporzione tra ognuno sta andando un po' per i casi suoi, e non vorrei che qui qualcuno fosse più bravo di altri a difendere l'interesse nazionale. Tutto qua. Poi ripeto, conosco l'obiezione: l'interesse nazionale si difende anche tutelando di più i cittadini, come abbiamo fatto noi con i tamponi. Per ora siamo diventati gli appestati, poi vediamo cosa succede nel resto d'Europa. Quarantena per gli arrivi dall'Italia l'ha deciso il governo cinese. E poi Brussels Airlines ha tagliato del 30% i voli verso l'Italia. La Repubblica Ceca ha bloccato i voli con 4 regioni italiane. Mi sta scrivendo adesso un dipendente di un noleggio con conducente a Malpensa, non ha più un solo trasferimento, sono a casa in ferie, mi scrivono anche i tassisti tutti i giorni, ci mancherebbe, non arrivano gli aerei, non arrivano i passeggeri, è difficile anche avere gli NCC e i tassisti. La Russia invece sta solo aumenterà i controlli sanitari. L'India ha bloccato tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia, Cina, Iran, Corea del Sud e Giappone. I visti sono sospesi. Il ministro degli esteri Di Maio ha detto i paesi rimuovono il blocco dei voli, è inaccettabile. Anche se qui bisogna stare attenti, perché noi stessi per primi blocchiamo i voli dalla Cina. Lo spread è leggermente sceso oggi a 165 punti dopo il taglio della Federal Reserve. L'ultima notizia prima di parlare di come si dovrà impostare una campagna per rilanciare l'immagine non solo di alcuni settori ma dell'intero paese, riguarda invece i dati sull'occupazione. Allora, purtroppo c'è un calo degli occupati a gennaio, che chiaramente non risente ancora del coronavirus, 40.000 occupati rispetto al mese prima, ma il tasso di disoccupazione è stabile al 9,8%. Risale leggermente il tasso di disoccupazione giovanile al 29,3%. Roberto Manducci al microfono del nostro Alessio Maurizi durante Effetto Giorno. Manducci è il direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat. Il dato sulla disoccupazione è relativamente positivo, in quanto il tasso della disoccupazione è stabile. In realtà, se andiamo a vedere i dati sull'occupazione, la situazione cambia, nel senso che c'è un chiaro segnale negativo, abbiamo avuto una perdita di 40.000 occupati in un mese, da dicembre a gennaio, e quello che è più, diciamo, preoccupante è che si è innescato un trend negativo di fatto, perché al di là del dato positivo di novembre, che è stato abbastanza particolare come mese rispetto all'andamento complessivo del mercato del lavoro, noi abbiamo, siamo in calo sostanzialmente dall'estate. E a questo punto abbiamo perso 110.000 occupati in tre mesi, con una tendenza appunto negativa. Per quanto riguarda la composizione dell'occupazione, permane, questo è un dato relativamente positivo, un livello abbastanza elevato dell'occupazione permanente. I permanenti sembrano tenere rispetto alle altre forme occupazionali. Abbiamo un calo forte degli indipendenti. Il mercato del lavoro sembra caratterizzato da una tendenza negativa complessivamente, concentrata soprattutto nel caso degli indipendenti, con effetti limitati sulla disoccupazione. Allora, ancora due notizie in breve, anzi no, perché sono tutte, riguardano tutte le iniziative per le aziende e il secondo decreto dove verranno utilizzati 3 miliardi e 600 milioni, cioè adesso sono stati stanziati, o meglio si va a deficit, 3 miliardi e 600 milioni, e poi il secondo decreto stabilirà dove verranno utilizzati, e poi ci sarà il terzo decreto di venerdì, e nel frattempo oggi è stato presentato il piano straordinario per le Made in Italy. Sono delle cose che fanno tutte parte della stessa azione del governo, ma con piani diversi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi ci risentiamo dopo il meteo. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Oh, e torna il sogno. Il sogno. Allora, il sogno di oggi è che nessuno cerchi di approfittare di un'emergenza internazionale, che non è certo stata causata dall'Italia, ma insomma, per fare pratiche commerciali scorrette, mettiamolo così. Cioè, le partite di calcio si giocano con lo stesso campo e con un arbitro imparziale, si spera, no? E quindi a me dispiace che il Prosecco abbia fatto più 200% e più 35% in Francia l'anno scorso, più 21% negli Stati Uniti, che la Francia importi quasi 20 milioni di bottiglie di Prosecco. Mi dispiace che la cucina francese negli ultimi anni come ristoranti sia scomparsa quasi dalla faccia del pianeta, perché è un cibo considerato poco in conforme alle nuove regole sull'alimentazione, e ci sia stata un'esplosione della dieta mediterranea. Mi dispiace moltissimo, anche perché io amo alcune cose della cucina francese. Non mi permetterei mai di dire che i francesi hanno abitudini alimentari non compatibili con il coronavirus, visto che portano la baguette sotto l'ascella da una vita. Non lo farei mai, perché mi sembrerebbe scorretto andare, così come non ci siamo permessi di dire non visitate Parigi dopo gli attentati dell'ISIS, Parigi, la Costa Azzurra, che colpirono soprattutto la Francia, dimostrando anche delle falle nel sistema di sicurezza francese enormi, per non parlare di quelle belghe. Non mi permetterei mai, perché sarebbe concorrenza sleale, oltre che schifosa, e quindi il turismo compete sulla base dell'offerta dei servizi che ha, dei posti che riesce a dare, l'agroalimentare compete sulla base della qualità dei suoi prodotti e si avvantaggia anche della rete di ristorazione, e ognuno competa, no? A modo suo. No, non mi piace il foie gras, lo dico, ma veramente non mi piace il foie gras, non mi piace neanche il marron glacé, ma non perché abbiano parole francesi. Il problema è che adesso ci sono le scuse di Canal Plus, ma Canal Plus non è, capito, uno che sta in un bar a bere pastis e dopo un po' di pastis gli parte la battuta. Canal Plus è un cavolo di emittente serissima che si è permessa di mandare in onda un video in cui c'è un pizzaiolo che tossisce e sputa mentre prepara una pizza che diventa pizza Corona, ok? Il pizzaiolo è francese, a giudicare dai baffi. Io non so neanche se farlo sentire questo video perché l'hanno rimosso, scusa dell'ambasciatore francese e quant'altro. Cari francesi, abbiate il coraggio di competere fuori dagli stereotipi, fateci capire perché avete fatto solamente 2000 tamponi e 1126 tamponi, con 1126 tamponi avete beccato il doppio dei casi italiani, e vi auguro, soprattutto a Canal Plus, che non saremo qua a commentare fra qualche settimana casi francesi uguali o superiori a quelli italiani, perché avete beccato 240 positivi su 1126 tamponi, noi abbiamo beccato 2036 positivi su 23.400 tamponi. Se la matematica non è un'opinione, avete esattamente il doppio dei casi per tamponi effettuati. Io posso anche pensare che ognuno si stia facendo i suoi interessi e che i numeri non debbano uscire per paura del contagio. Per carità, io continuo a chiedermi come mai la Germania, con tutti i rapporti che abbia, così pochi casi. Però andiamo alla parte, construens, come dicevano i latini. Perché oggi Di Maio, e poi lo ascolteremo nella seconda ora, ha annunciato 716 milioni di euro per ora per il Made in Italy, credito alle imprese, campagna straordinaria di comunicazione, oltre a tutte le informazioni per l'internazionalizzazione. Poi ha annunciato che le piccole e medie imprese saranno rimborsate al 100% per le mancate fiere, è uno dei punti del piano straordinario per il rilancio dei Made in Italy, e ha definito inaccettabili i blocchi alle merci italiane. Ora è chiaro che adesso queste sono prime misure, ma è anche altrettanto chiaro, come dicevo, che quando la situazione si sarà normalizzata, l'Italia dovrà, e il governo in primis, con le sue istituzioni, l'ICE, ma non solo, partire con una campagna enorme che non può durare lo spot di una settimana, e agevolare fiscalmente gli imprenditori perché riallacciano tutti i rapporti che hanno perso o hanno sospeso in questo periodo, dalle fiere agli inviti, alle spese di rappresentanza all'estero, alle spese di rappresentanza per chi fa venire i buyers in Italia e quant'altro. Prepararci per tempo, io ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente della principale associazione di creativi e pubblicitari italiani, che aderisce anche all'Associazione Internazionale di Creativi e Pubblicitari, Vicky Gitto. Buonasera. Buonasera. Senta, però non posso non chiedere un primo commento sul... hanno parlato anche il ministro Bellanova, definendo il video vergognoso e raccapricciante, è stato mandato un richiamo all'ambasciatore francese in Italia, Canal Plus si è scusata, però insomma un commento me lo dà, e poi veniamo alla parte invece costruttiva su quello che dovremmo iniziare a impostare come campagna di comunicazione. Tanto è molto strano quello che è accaduto, perché devo dire che Canal Plus ha una storia autorevolissima di grandissima comunicazione, quindi è molto molto strano. Detto questo, io quello che sto notando in questi giorni dalla comunicazione in tutto il mondo su questo tema è che ci sono paesi che considerano il proprio paese un brand e paesi che non lo considerano. La Francia, l'Inghilterra, la Germania hanno un controllo sulla comunicazione che è estremamente attento. Noi, devo dire, in questo pecchiamo, cioè non abbiamo colto, probabilmente le aziende o i manager più del mondo delle istituzioni, che l'Italia è un brand che va tutelato e che va saputo comunicare con grandissima attenzione. Invece la facilità in commenti con strilli da prima pagina, eccetera, hanno fatto sì che ci hanno messo in ginocchio agli occhi del mondo intero. Credo in questo momento ci siano aziende che esportano, che hanno grossissimi problemi da qui in avanti a tendere senza alcun motivo, per questa leggerezza nel comunicare il brand Italia. Questo è un tema importantissimo. Capisco io, Gitto, è un conto è adottare le misure di prevenzione, qui io non so dire se abbiamo fatto meglio noi con 23.000 tamponi. Ricciardi sostiene che Veneto e Lombardia abbiano esagerato, e io ho detto, ma non per attaccare Fontana e Zaia, è che assieme al Conte nel bunker c'erano anche Fontana e Zaia, che quella mascherina, altri topi, poi la guerra, le cose. Certo, certo. C'è stata un po' una gara a dimostrare che eravamo pronti all'emergenza, non capendo certo. Che però così l'immagine che usciva fuori era di un paese in emergenza, non pronto all'emergenza, e non era un terremoto. Io ne faccio un tema esclusivamente di comunicazione. Tornando a questo tema, una cosa è dire migliaia di tamponi, un paese appestato al coronavirus, altra cosa è dire l'Italia è il paese più sicuro del mondo, bravo, perché bravo. Affronta un problema nel modo più incisivo di tutti. Cioè è proprio un tema di comunicazione, non è la prima volta che l'Italia incappa in un errore per superficialità sul modo in cui si comunica. Allora, cioè, scusi, perché mi interessa molto questo punto. Il primo consiglio, modestamente, da dare a Rocco Casalino, a tutti, che è il portavoce del Premier, e a tutti i consulenti di comunicazione della Regione Lombardia, Regione Veneto e altre, e chi ha fatto a gara nel dimostrare che eravamo pronti come se fosse successo un terremoto, è attenzione, girate, se posso tradurre in positivo quello che è stato a mio avviso un eccesso di zelo, cioè iniziamo a dire guardate che rispetto alla Francia l'Italia siamo è molto più sicura, più. Oh, iniziamo con una bella campagna così, attento a non andare in Francia perché l'Italia è più sicura. Esatto, è lo stesso tema raccontato in un modo completamente diverso. Quindi questa è la prima cosa. Secondo, io non so Rocco Casalino che tipo di esperienza abbia in comunicazione, in termini proprio di comunicazione per Marche o altro, di comunicazione istituzionale probabilmente ne sa sicuro più di me, però credo che su questi temi bisogna fare una grandissima attenzione, perché paesi per esempio come l'Inghilterra, la Francia hanno una grandissima attenzione in questo, cosa che noi non abbiamo per niente, quindi probabilmente anche i tecnici a cui ci si rivolge fanno degli errori che sono poi che hanno poi ricadute pesantissime sull'economia, sui investimenti. Mi dici un errore che abbiamo fatto nell'enfatizzare troppo, appunto, nel non dire che in questo modo non eravamo più sicuri di altri, dare l'impressione che il nord Italia si fosse trasformato in un lazzaretto? Ma sì, abbiamo trasformato l'Italia da un paese dove la sicurezza era una priorità a un paese in cui siamo, per quello che sembra fuori, tutti a casa con la febbre senza poter uscire, le finestre chiuse. Cioè è un dramma mediatico di proporzioni inenarrabili. Noi abbiamo a che fare tutti i giorni con aziende che sono seriamente preoccupate per le ricadute di un'inutile e sbagliata comunicazione del paese. Questo è un dato fondamentale. Se io dovessi oggi recuperare credibilità, credo che in questo caso non ci siano vie di mezzo, prenderei i più alti rappresentanti della cultura, dell'arte italiana nel mondo, eccetera, eccetera, e li coinvolgerei in un'azione di credibilità e di attenzione per il valore di ciò che significa essere italiani nel mondo. A volte queste sono delle scorciatoie, ma in questo caso per colmare un gap enorme che ci siamo creati da soli in termini di perdita della credibilità, l'unico boost, l'unico diciamo turbo per recuperare velocemente è creare un gruppo di rappresentanti autorevoli nel mondo del paese Italia e fare una campagna che ci faccia recuperare velocemente i punti che abbiamo perso in queste pochissime. Allora resti con noi Gitto, perché a me quello che ha impressionato, io non faccio né il creativo né il pubblicitario, ci mancherebbe, ogni tanto mi occupo di comunicazione, è stata la velocità con cui siamo riusciti a sputtanare, scusatemi il termine, un'immagine, nel senso che gli scandali esistono, sappiamo cosa costò, parlo di 30 anni fa ormai, anche di più, nel settore vinicolo il metanolo, per carità, però qui siamo riusciti a dare l'immagine di un paese. Io capisco il turismo, allora, è diverso il turista che dice beh in questo momento non volerei in Lombardia, a parte che non volano più dovunque, non vogliono venire nella costa amalfitana, in Sicilia ho parlato con strutture enormi in Sicilia, hanno avuto cancellazioni per tutto il mese di marzo su convention, vabbè, però lì c'è un problema dell'individuo che si muove. Qua il mio timore, Gitto, vorrei capire se lo condivide dopo il traffico, è che si sta applicando in maniera del tutto illogica e anche schifosa alle merci italiane. Cioè, quello che sta emergendo non è un problema, o meglio, a mio avviso, che siamo stati anche più bravi degli altri in alcuni casi, ma è che c'è un paese infetto e quindi anche le merci che arrivano, arrivano dal paese infetto. Qui siamo alla follia, però vorrei la risposta dopo il traffico. Alcuni mi dicono, anche voi media avete contribuito, ripeto, non ho dubbi che non abbiamo contribuito, però dipende anche dove va il soggetto istituzionale. L'ho detto una settimana fa, lo ripeto, non ho niente contro i programmi della D'Urso, programmi simili, però forse non è quello il format esatto per andare a parlare, forse bisogna parlare un po' meno, con meno mascherine, meno enfasi, meno panic room, cioè stare un attimo più tranquilli e dire guardate che abbiamo, tra l'altro è scoppiato nelle due regioni che sono invidiate non solo in Italia ma anche in Europa per il sistema sanitario, e dire attenzione, noi stiamo facendo un lavoro che gli altri paesi si sognano, andate a guardare gli altri. Invece è uscito il paese in quarantena. Gito, dopo il traffico vorrei capire com'è stato possibile questo passaggio dalle persone, che posso anche comprendere, noi stessi avevamo bloccato i voli dalla Cina e noi stessi non volevamo andare a mangiare nei ristoranti cinesi, nessuno vuole andare in Cina, alle merci, che questo oggettivamente nemmeno io l'avrei mai immaginato. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, qualcuno mi scrive: Zaia che insulta i cinesi come mangiatori di topi e paragonabili ai francesi. Avete ragione, avete ragione. Io non ho avuto problemi in questi anni a riconoscere Luca Zaia di aver fatto anche un ottimo lavoro, però mi dispiace, qua i governatori hanno sbarellato anche loro. Fontana con la mascherina che non sa neanche come mettere, non serve a niente, quella mascherina lì, Zaia con i topi, poi deve chiedere scusa all'ambasciatore cinese in una regione che è assieme a Lombardia, Emilia Romagna e Toscana la prima in Italia per i rapporti con la Cina. Prima o poi questo virus finirà e bisognerà intrattenere di nuovo i rapporti. Comunque, Gitto, mi spiega com'è stato possibile che dalle persone si sia passate alle cose? Ma c'è un dato preciso. La prima regola che si impara facendo questo lavoro è che la percezione diventa la realtà. Quindi una cosa, un messaggio costruito così, con questa leggerezza di paura, di ansia, cioè, immediatamente diventa la realtà, quando no, sappiamo benissimo che non è così, perché tutto è molto ben circoscritto, il paese oggettivamente poi si è mosso bene sul territorio, si è mosso malissimo nel modo in cui ha comunicato. Oggi poi quello che succede attraverso i canali digitali, l'amplificazione di quello che diventa una percezione su qualsiasi argomento viene amplificato istantaneamente all'ennesima potenza, e questo è quello che ha creato delle ricadute infernali a partire proprio dalle persone che poi sono state coinvolte, con una miccia accesa chissà dove, in pochissime ore è arrivato in giro per il mondo un messaggio totalmente sbagliato. Io credo che oggi bisognerebbe fare grandissima attenzione al controllo con cui si danno delle notizie, e per questo ripeto, il nostro paese ha una serie di casi storicamente simili in cui un errore nel modo in cui si veicola un messaggio crea dei danni disastrosi. Allora, un attimo Ugitto, oggi... perché sì. Qualcuno mi dice ti manderei negli ospedali lombardi con il tuo ospite e poi voglio vedere se parli ancora di procurato allarme. Io non ho detto procurato allarme, ho detto, però vediamo se riusciamo a capirci oggi, che tra il mettere in sicurezza un paese, magari abbiamo fatto meglio noi a fare 23.000 tamponi, cosa che però, lo dico all'ascoltatore, il consulente di Speranza, nonché membro dell'OMS, Ricciardi, ritiene che abbiamo ceduto in zelo in Lombardia e in Veneto, devo dirlo la terza volta, e quindi non è neanche Ricciardi d'accordo sui 23.000 tamponi effettuati, ma mettiamo anche che siamo stati più bravi noi e più fessi gli altri. Il problema è che se tu questi 23.000 tamponi non li trasformi in un messaggio positivo, guardate che siamo i più bravi, abbiamo controllato molto di più degli altri, 20 volte più dei francesi, ma non sai gestirlo, diventa un messaggio ansiogeno, La mascherina, non ho detto che non serva, non serve quella mascherina. Andate a vedere cosa stiamo dicendo da settimane. La mascherina, la cosa così, invece che essere più bravo, sei semplicemente quello più appestato. Però l'ho interrotta sul passaggio tra uomini e merci. Il problema, infatti, non è quello che si vede. Il problema è tutto quello che non si vede, che quelli come noi che hanno contatti diretti quotidianamente con aziende che fanno i più disparati servizi, danno i più disparati servizi o si occupano dei prodotti più diversi, è tutto quello che non si vede. Queste aziende stanno avendo problemi che le persone per strada neanche immaginano, perché gli vengono cancellati gli ordini, perché vengono cancellate le riunioni, perché gli viene detto che il prodotto non può arrivare nel loro paese. Dico, la settimana scorsa c'è stata la moda a Parigi, non hanno voluto la presenza degli italiani. Ma cioè, sono cose che le persone, ovviamente, di cui spesso non ci si rende conto, ma i danni e le ricadute di questa sbagliata comunicazione sono infinite, infinite. Per questo l'unico grande e semplice messaggio che voglio dare alle nostre istituzioni è attenzione, perché la comunicazione di qualcosa che verte sulla percezione può cambiare completamente lo scenario. No, ma io dico, io sto uscendo pazzo, perché ci abbiamo messo 15 anni a creare Made in Italy. Sì, con la forza del marchio che ha fatto rosicare anche i francesi, e lo dico di nuovo. E in una settimana stiamo rischiando di giocarci il benefile di tutto quello che avevamo costruito. E qui è l'ultima domanda che ho per lei, Gitto. Mi scrive un ascoltatore che fa l'imprenditore, dice: beh, mio padre mi diceva sempre che per costruire una reputazione ci vogliono degli anni, per distruggere bastano 5 minuti. Allora, io vorrei uscire con un messaggio anche positivo. Lei ha detto una cosa giustissima: giriamo in positivo il racconto, che il paese è più efficiente, reagiamo tempestivamente a tutto ciò che non basta dire inaccettabili voli chiusi, e ascoltiamo anche e usiamo, se ho ben capito, dei testimonial nel raccontare, non una volta, non per una settimana o con una campagna studiata bene e per mesi. Però è vero che è molto più faticoso ricostruire di quanto non sia costruire, o quindi più facile distruggere? Allora, sicuramente sì, ma io ho per esperienza vissuto direttamente o indirettamente una serie di situazioni in cui il recupero è il focus principale su cui devi lavorare, e a volte, non sempre, si riescono a fare delle operazioni che in questo senso sono miracolose. Quindi c'è un grosso problema sul tavolo quando si hanno consulenti o comunicatori su temi importanti a dover risolvere. Spesso sono le sfide più grandi a dare i più grandi risultati. Non è sicuro al 100% che ci si possa riuscire, ma sono sicuramente argomenti che andrebbero trattati con tecnici che sanno dove mettere le mani, perché il recupero che dobbiamo fare è più grande di quello che possiamo immaginare in questo momento. Sì, tra l'altro vedo che adesso anche il Vinitaly ha annunciato che sposterà a giugno la Vinitaly. Il Salone del Mobile. Il Salone del Mobile l'aveva già annunciato, ma adesso Vinitaly, che aveva cercato di tenere botta, e chiaramente è troppo rischioso tenere Vinitaly. È arrivata adesso la notizia, e Vinitaly a metà aprile, non c'è ancora notizia ufficiale, mi stanno scrivendo. Comunque, quindi Gitto, lei dice, ma la campagna, quando quella, diciamo, forte con i testimoni, ma che io immagino che debba anche illustrare, voglio dire, noi non lo diciamo mai abbastanza, abbiamo le procedure sanitarie di controllo sulla filiera dell'agroalimentare, che vuol dire, qua la Romania vuole la quarantena, ma dovrebbe venire a imparare come si fa a controllare la filiera. Al di là dei testimoni, servirà una campagna anche di contenuti, ancora più contenuti? Assolutamente, o no? No, assolutamente, i testimonial sono solo un volano più veloce di divulgazione, ma la campagna deve essere totalmente concentrata sui contenuti, assolutamente. Cioè, non possiamo raccontare con leggerezza messaggi che hanno una consistenza sul territorio pesante. Bisogna fare una campagna di contenuti e trovare il modo, che possono essere i testimonial come strada più veloce o altro. Sinceramente, dando una risposta coi piedi per terra, dovrei lavorare sul tema, o ci dovrà lavorare chi verrà sicuramente coinvolto, Ma sicuramente ci vuole un volano immediato e veloce per far sì che la tematica che oggi è sul tavolo del nostro paese sia semplicemente un tema di spostamento in avanti, slittamento di tempi, ma non un tema perché serve una controinformazione, se avete una volta, perché qua da dispingere il paese come un grande sanatorio fatto di monatti, esatto. I monatti sono stati altri, occorre invece dire attenzione, l'Italia è il paese dove il sistema sanitario è il più, tra l'altro lo dicono le organizzazioni, lo dice l'OMS, lo dice Bruxelles, lo dicono i virologi, il problema è che non passa questo messaggio nell'opinione comune. Nel ringraziare Vicky Gitto e quindi il presidente del Art Directors Club italiano, segnalo che molti produttori di frutta e verdura questa mattina mi scrivono da Verona, 10 autotreni di frutta non vengono caricati perché gli autisti rumeni si rifiutano di caricare a Verona, in quanto al loro rientro verranno messi in quarantena. Certo, voglio dire, tu sei a Verona, con quanti casi hai a Verona? 8 casi, 4 casi, adesso andiamo a vederlo, però anche Verona è diventato un grande lazzaretto, ma non perché Verona mi interessi, cioè che sono 10 autotreni di frutta, quelli non è che li puoi rifare o spostare come le fiere, quelle le butti via. Comunque, grazie Vicky Gitto, andiamo su Gerente. Silenzio per favore, pochi secondi all'on air. Ragazzi, stanno per cominciare, ma Fito e Sprinter non sono meno arrivati. Meno 3, meno 2, meno 1, partiti! Le grandi stelle arrivano senza anticipo. Vito a 220 euro, Sprinter a 270 euro al mese, con anticipo zero, tag massimo 2,64 e tutti gli optional di cui hai bisogno già a bordo. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial presso le concessionarie aderenti. Corpo denso, delicatamente aromatico, una nota di caramello. È il nuovo caffè Nespresso ispirazione Venezia. Non senti anche il sapore dell'opportunità? Cosa? Con i piani Nespresso Easy, subito una macchina Nespresso in omaggio. E scegli i tuoi caffè preferiti, come e quando vuoi, solo nelle boutique Nespresso. E su Nespresso.com, consegna gratuita comprando almeno 10 astucci. Nespresso, what else? Nel 2016 sono stato condannato per omicidio. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Da Conad premiarti ogni giorno è semplice. Anche quest'anno, se fai la spesa con Carta Insieme, guadagni punti per ottenere i premi del nuovo catalogo Mi Premio 2020, pensando a te, alla famiglia e anche all'ambiente, perché una comunità è più grande di un supermercato. Info su mipremio.conad.it. Conad, persone oltre le cose. Denti che si muovono? Gengive che sanguinano e si ritirano? Alitosi? Vieni da EDN ed entra nella clinica odontoiatrica del futuro. Dai nostri laboratori di ricerca, la soluzione. Oggi la parodontite si può curare senza estrazioni o impianti. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama l'800 090 106 o visita il sito parodontite.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, guardate, lo dico in maniera ancora calma, poi andiamo avanti col decreto con le iniziative lanciate oggi dal governo. Qui la cosa difficilissima è tenere assieme l'emergenza sanitaria, e hanno ragione tutti quelli che dicono attenzione, l'evitare il contagio il più possibile per non far collassare la struttura sanitaria, non solo in Lombardo-Veneto, evitando di dare una comunicazione che faccia percepire, ahimè è già successo, l'Italia come un grandissimo sanatorio. Allora qui non si trattava di non dire, anzi Gitto come presidente dei creativi e pubblicità italiani ha detto una cosa diversa, ha detto se abbiamo fatto tanti tamponi, ormai li abbiamo fatti tanti, secondo Ricciardi troppi, almeno giriamola in positivo e diciamo guardate, è molto più sano venire in un paese dove abbiamo controllato 23.000 persone che non in un paese, vedi la Francia, dove hanno fatto 1.100 tamponi in tutto. e noi ne abbiamo fatti 23.000. Questo è il... Ha ragione chi mi dice anche Conte ha contribuito. Io ho parlato di Rocco Casalino, ma Presidente del Consiglio, a me non è piaciuto nel bunker della Protezione Civile, non mi è piaciuto quando anche lì c'è un'indagine in corso sull'ospedale di Codogno per capire perché lì si è creata una bomba batteriologica. Bene, ma tu non puoi fare una comunicazione dicendo qualcosa non ha funzionato nella sanità lombarda, dando da fuori l'immagine che anche una delle migliori sanità d'Europa, la Lombarda, Veneta, Emiliana, abbia avuto un problema. Poi vedremo cosa succederà con l'inchiesta interna. E poi ci hanno messo il carico da 90 i due governatori, e su questo non ho dubbi. Allora, la borsa, al di là dell'America che adesso perde lo 0,70%, il taglio di mezzo punto percentuale, il primo straordinario per emergenza operato dalla Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha portato a respirare un po' le borse europee oggi, più 1,1% Parigi, più 1% Francoforte, più 1% Londra, più 0,40% Milano, in recupero è Steam Microelectronics, più 2,70%, più 2,5% Snam, più 2,5% Buzzunice, più 2,20% Fineco, più 2% Era ed Enel, anche ricordati, più 1,70% Campari, l'1,60% rialzo di A2A, l'1,5% di Ferrari, Leonardo, Italgas più 1,20%, Exor più 1,1%, Fiat più 1%, Prismian più 1%. Dico a un ascoltatore che sta passando la giornata a insultarmi, io capisco che magari lei è a casa, ok, però io sto lavorando, quindi se è tutta una cavolata quello che stiamo dicendo, e guardi, è bellissima la democrazia, anche col coronavirus, cambi stazione e lasci lavorare chi lavora. Allora, Banco BPM meno 8,20, Unicredit meno 4,20, di nuovo le banche sotto pressione, meno 2,35 B per banca, Pirelli meno 2,1, Unipo meno 1,80, come Telecom, Saipem meno 1,5, Atlantia meno 1, Mediobanca meno 0,90%. Sì, non la butterei in politica in maniera così netta come fanno alcuni ascoltatori. Guardate che poi diventa una bella gara, se guardiamo i partiti di appartenenza ai soggetti che ho elencato. Su, vedo che anche le opposizioni, insomma, hanno una difficoltà a costruire una narrazione alternativa, come si direbbe in politica. Cosa fai? Chiudi le frontiere? Ci hanno già chiusa noi. Allora, andiamo sulle iniziative del governo. Dunque, abbiamo raccontato il primo decreto, è quello approvato venerdì scorso, 900 milioni di euro per la zona rossa sostanzialmente. Poi il decreto annunciato ieri, 3 miliardi e 600 milioni, che però dovrà entrare e diventare attuativo entro venerdì per la fase 2, o meglio, i 3 miliardi e 600 milioni verranno poi distribuiti come ci spiegheranno, ma venerdì dovrebbe arrivare altri interventi per tutti i territori colpiti dall'emergenza, ricalcare in parte quelli già presi per la zona rossa, quindi rafforzamento degli ammortizzatori sociali, possibilità per i settori più colpiti di ricorrere alla cassa integrazione in deroga, indennizzi in denaro per attività economiche più colpite. E poi nel primo decreto ricordo che erano stati stanziati 500 euro al mese per un massimo di 3 mesi per lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e collaboratori che avessero dovuto sospendere le loro attività. È atteso anche il decreto Franceschini, cioè che cosa fare al mondo del turismo. Lì il mondo del turismo è colpito dovunque, è tutta una zona rossa, abbiate pazienza. E quindi non solo i 360 milioni di euro di gite scolastiche annullate, anche se erano studenti che dovevano andare dalla Sicilia alla Puglia, ma capisco il contenimento, non sto criticando, ma gli operatori devono, le famiglie vogliono i rimborsi dei soldi già anticipati. Se ho ben visto, qui dovrebbe esserci nel decreto Franceschini anche il rimborso per gli agenti di viaggio. Allora, sentiamo prima il ministro Gualtieri sul secondo decreto e poi invece Di Maio, perché oggi Di Maio, Gualtieri e la Bellanova erano a presentare il piano straordinario per il sostegno a Made in Italy, che non c'entra con, diciamo, i decreti emergenziali per le zone colpite o per i settori colpiti. Comunque, Gualtieri. Contemporaneamente, come sapete, siamo al lavoro per il secondo decreto, dove puntiamo a utilizzare questi 3,6 miliardi per una serie di misure finalizzate a sostenere l'economia, in particolare dal punto di vista naturalmente del lavoro, della cassa integrazione, ma anche della liquidità per le imprese e del ristoro parziale o totale a settori e territori più impattati. devo dire che è positivo che questo nostro sforzo, impegno, questo primo impegno con risorse aggiuntive si colloca anche dentro una crescente consapevolezza e coordinamento anche a livello internazionale. Vengo da una conference call del G7 dove si è concordato su uno stretto coordinamento per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus e anche quindi si è espressa la il fatto che i paesi G7 sono pronti a intervenire anche con misure fiscali, di carattere fiscale adeguato per sostenere l'economia. Allora, intanto è in conferenza stampa come ogni giorno alle 18, anche lì si è riusciti a dare più organicità alla comunicazione. La Protezione Civile comunicherà ogni giorno sempre alle 18. Ha parlato Borrelli e quindi il responsabile della Protezione Civile. I contagiati, a questo punto i casi positivi al coronavirus sono saliti a 2.263, i morti sono saliti a 79, i guariti a 160. I tamponi sono saliti a 25.800, quindi stiamo parlando di 2.500 tamponi in più rispetto a ieri. Ha detto adesso poco fa Borrelli, l'aiuto anche per la sanità lombarda, che in questo momento è chiaramente sotto pressione. Abbiamo sentito Gualtieri, poi l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le nuove scadenze fiscali fissate dal decreto del governo porteranno sostanzialmente 20 milioni e mezzo di contribuenti a presentare il 730 a settembre. E veniamo invece all'aspetto che riguarda il Made in Italy. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Marco Fortis, che insegna economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica di Milano e vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera Fortis. Buonasera. Forti, adesso vediamo quello che hanno annunciato oggi i vari ministri, ma lei che da sempre è uno che studia con i numeri alla mano il Made in Italy e ha sempre fatto notare gli enormi progressi del nostro export in tantissimi settori, il suo medagliere dove siamo numeri 1, numeri 2, numeri 3, è preoccupato? Beh, la preoccupazione maggiore direi più che per l'export in questo momento dovrebbe essere un po' per la tenuta complessiva del sistema e anche dei dati macroeconomici generali, perché noi abbiamo di fronte delle previsioni molto blande come quelle dell'OCSE diffuse ieri, in cui si ipotizza una crescita zero del PIL italiano nel 2020, ma io credo che sarebbe opportuno da parte dei decisori politici del governo immaginarsi uno scenario un po' più negativo. Se noi immaginassimo anche soltanto delle perdite che sembrano a questo punto facilmente raggiungibili di una certa entità da parte del settore turismo, da parte del settore manifatturiero, da parte del settore trasporti e quello servizi di intrattenimento, divertimento, eccetera, arriviamo subito a una perdita di 20 miliardi nel corso del 2020. 20 miliardi vuol dire che per controbilanciare un calo dell'attività economica di questo tipo bisogna contrapporre qualche cosa d'altro. La cosa che più facilmente si può contrapporre, a mio avviso, sono gli sblocchi di investimenti in opere pubbliche, l'unica cosa che si può mobilitare a tempi brevi. Poi ci sono tutti gli interventi che sono stati citati, c'è anche l'intervista di Patuanelli oggi sul Sole 24 Ore, certo. Sono tutte iniziative che servono a tamponare e a rilanciare, a fare da contrappeso ai cali presunti che si attendono da parte dell'attività economica generale. C'è poi un aspetto cruciale che è quello della liquidità delle imprese. Noi veniamo da una crisi bancaria e delle piccole e medie imprese dovuta alla doppia recessione, stiamo entrando in una terza possibile recessione. Vabbè. E quindi abbiamo appena risolto il problema dei crediti deteriorati, rischiamo di trovarci. Sì, e questo è un altro tema che affronteremo nei prossimi giorni, tutto non riesco a fare in una volta. Certo che fra un po', se le imprese vanno in difficoltà e i crediti vanno in difficoltà, rischiamo di trovarci di nuovo col problema degli NPL. Però una cosa per volta. Adesso andiamo sul traffico, poi ascoltiamo le misure che sono sicuramente parziali, che col cavolo che posso immaginare che 716 milioni basti, no? per il Made in Italy. E poi vorrei anche capire che ne pensi di quanto ci ha detto Vicky Gitto nella prima ora, cioè che bisogna partire con una campagna di comunicazione il prima possibile per contrastare un'immagine che non ha a che fare con la realtà. Chi vi parla trasmette da sempre, anche la settimana scorsa, da Milano. Certo che era una Milano diversa, però insomma non siamo tutti in quarantena qui dentro, non siamo tutti, non è bloccato tutto. L'immagine che arriva da fuori è di un paese le cui merci perfino non si vogliono accogliere. Comunque, dopo il traffico. Focus Economia. Ci sono aziende che dovevano partecipare ad imprese, a fiere, e non hanno potuto farlo o perché la fiera è stata rimandata o perché gli è stato impedito l'accesso a quel paese. ICE finanzierà il 100% della spesa a tutte le aziende che hanno avuto questa difficoltà, quindi non dovranno rimetterci soldi. L'Agenzia del Commercio Estero metterà a disposizione i fondi per affrontare al posto delle imprese le spese che hanno dovuto sostenere per la partecipazione a quelle fiere. Il piano straordinario ha in capo all'Agenzia del Commercio Estero nel 2020 una disponibilità di 316 milioni di euro, che si sommano ai 400 milioni di euro di dotazione che ha il fondo SACE SIMEST per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Quindi in tutto noi abbiamo oggi qui, oltre alle varie vari strumenti che hanno singole aziende di Stato, abbiamo a disposizione una risorse per 716 milioni di euro. Così Di Maio, e sentiamo invece anche il presidente Confindustria Boccia. Questa mattina era ospite di Maria Latelle e Simone Spezia a 24 mattino, e dopo aver ribadito che non bastano 3 miliardi e 6, occorre un'operazione shock a livello italiano, però ha chiesto che il paese ritrovi la dignità e di agire subito anche a livello europeo, un piano straordinario di investimenti da 3 mila miliardi in 10 anni. È evidente che avremo un calo di domanda privata in Italia e in Europa, a partire dal turismo, ma non solo, chiaramente avrà degli effetti anche sulle abitudini di acquisto dei cittadini europei ed italiani, e questo va compensato con una domanda pubblica che chiaramente deve reagire immediatamente, significa investire in infrastrutture con una dotazione rilevante, aprire un fronte sulla questione credito, anche questo è un elemento essenziale per aiutare questo periodo di transizione da tutte le imprese che avranno dei cali di fatturato in questo periodo, speriamo non lungo, legato chiaramente alla criticità economica. Occorre una grande consapevolezza che in questa fase delicata occorre una convergenza nazionale, dalle parti sociali al governo, alle istituzioni territoriali, a tutte le forze politiche. Questo è un momento delicato della vita dell'Europa e dell'Italia, e questo è un momento in cui dobbiamo recuperare senso e spirito di comunità che abbiamo perso da tempo. L'Europa si aspetta un grande piano straordinario che prenda consapevolezza della dimensione quantitativa e temporale del problema, che è evidente. Allora, Fortis, lei diceva qui stimiamo almeno 20 miliardi, io aggiungo che ci sono altri settori che non riusciamo a coprire, la crisi del mondo dello spettacolo, dei teatri, ma qui aspettiamo il decreto di Franceschini che riguarda turismo e anche musei, teatri, spettacoli. A me viene in mente subito, vabbè, 20 miliardi, la prima cosa che salta qui è il fiscal compact, non me ne frega nulla se non riusciamo a trovare 23 miliardi per il fiscal compact firmato a suo tempo da Tremonti, poi messo in atto da Monti, altrimenti aumenta l'IVA, e il piano di carattere europeo. Però vorrei restare sull'immagine del nostro Made in Italy, perché ci abbiamo messo così tanto a costruirla, e abbiamo grazie ai nostri imprenditori, grazie a chi è andato all'estero, con anche un aiuto del sistema paese più basso rispetto alla Francia. Lei ritiene che, cioè, Gitto prima diceva, bisognerebbe girare anche in positivo certe immagini e dire attenzione, noi abbiamo fatto a questo punto 25.000 tamponi perché siamo un paese straserio, strasicuro, altri paesi che ne hanno fatti 1.000 per evitare un danno all'immagine, ma non posso credere che sia altro, sono paesi meno sicuri. Non ritiene che debba esserci una campagna fortissima appena la situazione sarà un po' più sotto controllo per il Made in Italy? Sicuramente correggere alcune di queste distorsioni d'immagine che sono state alimentate anche all'estero in questi giorni ai nostri danni è fondamentale. Io penso che la diffusione di questa epidemia sarà però tale che tra breve non è che additeranno l'Italia come un lazzaretto, perché molti altri paesi, temo, avranno problemi analoghi. Mm-mm. Noi abbiamo fatto molti più controlli, abbiamo avuto anche un impatto diciamo iniziale più forte. Siamo stati i primi in Europa, tra l'altro. Certo, però io credo che alla lunga non è che la qualità delle merci, la qualità dell'ambiente, la qualità del turismo si misurerà solo avendo l'Italia come parametro ultra negativo. Anche gli altri paesi avranno problemi, però nel frattempo correggere questa distorsione di immagine nel breve e medio termine è fondamentale, perché altrimenti quelli che sono già i danni previsti soprattutto per il turismo rischiano di aggravarsi ulteriormente. Anche il turismo interno rischia di avere dei problemi seri, perché gli stessi italiani, non solo gli stranieri, tenderanno a ridurre i viaggi in questo periodo, e quindi bisogna evitare di trasformare la legittima e necessaria attenzione per il contenimento di questa epidemia in un danno economico incalcolabile. E quindi lei dice, al di là del correggere l'immagine e andare a recuperare quote, lei ha ragione a dire attenzione, poi non è detto che gli altri paesi non siano in situazioni simili all'Italia, quindi poi si appiana il campo da gioco. Qua il problema vero è cosa fare dei mancati fatturati. Ho visto lo spostamento in là delle scadenze fiscali, ci mancherebbe, però se esportiamo di meno, per non avere un aggregato negativo o troppo negativo, occorre fare investimenti infrastrutturali. Secondo me, e ne parleremo con gli altri ospiti nelle prossime puntate, il modello Ponte di Genova, cioè andiamo a con un commissario straordinario, chiudiamo le opere, visto che l'alta velocità sul tratto Verona, sul tratto Brescia-Verona dovrebbe essere finita nel 2025, ecco, magari abbiamo 2-3 anni, cioè andiamo a fare d'emergenza opere infrastrutturali, al di là di tanta retorica su questo. Mi dica una cosa però, Fortis, per il Made in Italy in sé, lei ritiene che non si possa fare, diciamo, avere operazioni dirette, e quindi io pensavo per esempio a tutte le spese di rappresentanza che secondo me nei prossimi mesi devono essere defiscalizzate, almeno per tutte le regioni che non sono riuscite o dovranno riallacciare rapporti. Lei ritiene che dal punto di vista macroeconomico l'operazione più grossa sia sul fronte investimenti, ho capito bene? Assolutamente sì, perché se noi consideriamo questa sola cifra chiave, 20 miliardi di meno di PIL, vuol dire che, siccome nel frattempo dobbiamo aumentare gli ammortizzatori sociali, fare delle spese eccetera, il debito aumenterà al minimo del 2% in termini nominali, con il PIL in termini nominali che va indietro dell'1,5-2%. A questo punto noi abbiamo il debito PIL che va al 140%, certo, se non si fa nulla. Quindi se si interviene subito con gli investimenti pubblici, ma vanno decisi non nei prossimi 6 mesi, ma decisi nei prossimi 6 giorni, questi investimenti pubblici, si riesce a prepararci in tempo per, certo, un danno enorme per l'economia, ma anche per l'equilibrio dei conti pubblici. Bisogna evitare, cioè, che per la terza volta si fermi al box il PIL, mentre il debito continua a girare, perché abbiamo già perso 2 giri in cui il debito girava, con la seconda recessione, e il PIL è rimasto fermo. Se il PIL rimane fermo per un'altra volta, che il debito che gira, il distacco diventa incolmabile tra le due variabili. Allora, nel ringraziare il professor Marco Fortis, noi continueremo nei prossimi giorni ad ascoltare consigli, non dico ricette, magari ci ascolta qualcuno sul fronte della comunicazione, che vuol dire economia in questo caso, marketing, e anche della macroeconomia, quindi di politica economica. Chi mi chiede già di analizzare come cambierà la narrazione dei vari la narrazione politica, è troppo presto. È chiaro che in questo momento il tema, diciamo, dello straniero è un tema opposto rispetto a qualche mese fa. È chiaro che il tema degli investimenti in infrastrutture, e quindi del fare, non del bloccare, è un tema opposto, cioè cambierà la narrazione anche dei partiti, ma questo non mi sembra l'emergenza in questo momento. Mi sembra riuscire a dare un sostegno all'economia di questo paese, oltre che a continuare a fare il lavoro che fanno in maniera incredibile i medici italiani, e quindi a cercare di contenere l'espansione. Domani torneremo sul tema a proposito di politica economica. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.